Siamo qui nel camerino con Francesco Guccini, pochi minuti prima del suo concerto. Vi ammetto che sono un po' emozionato perché Guccini è uno dei miti della mia infanzia, ma vedo che anche Francesco è abbastanza teso. È normale per te prima di un concerto o è perché ti trovi all'estero? No, è sempre normale essere tesi prima di un concerto ed è bene anche esserlo perché è come prima di un esame, quindi la tensione si tramuta in scarica di adrenalina che forse rendono meglio l'esame e il concerto stesso. Tu sei sempre stato considerato un personaggio scomodo, adesso sei qui nell'ambito di questa manifestazione culturale Frammenti quasi a rappresentare la musica italiana. Come ti senti in questi panni? Beh, oddio, mi sembra esagerato che io rappresenti la musica italiana, rappresento una parte della canzone italiana, una parte che ha la sua importanza, ma non sono io, tutti i miei colleghi che scrivono più o meno quel Renzo, e quindi è interessante proporre queste cose all'estero anche se c'è l'impatto linguistico che naturalmente non aiuta, perché le nostre canzoni possono essere più o meno valide se il pubblico riesce più o meno ad afferrare quello che dici. Se non lo dici può diventare un concerto, una noia mortale. Speriamo che così non accada. Siamo convinti che non lo sarà, anche perché ci sono numerosi italiani nel pubblico e penso che spiegheranno loro e i loro amici tedeschi se c'è da tradurre qualcosa. Un'ultima cosa, credo da una decina d'anni sei anche uno scrittore e so che stamattina hai fatto una presentazione all'Università di Saarbrücken, una lettura. Com'è andata? È andata molto bene, non è stata una lettura, è stata una conversazione. Avevo detto alcune cose su proprio i miei libri, dopodiché sono state domande del pubblico di vario tipo e quindi ho risposto, non è stata né una lettura né una conferenza, è stata proprio una conversazione col pubblico. E quindi è andata molto bene, sono molto amichevole, molto importante. Un'ultima domanda, ti piace la musica italiana di oggi? Ma credo di mai, la musica italiana di oggi, io non è che ascolti molta musica, ci sono alcuni che mi piacciono, altri mi piacciono meno, altri non mi piacciono affatto. È giusto che le cose cambino, che le cose vadano avanti, anche se non credo usciranno fuori i cantautori come la generazione di cantautori della quale io faccio parte, ma non perché sono irripetibili, perché il momento che è irripetibile, l'atmosfera che è irripetibile. Quindi nasceranno cose diverse che possono essere positive o negative, dipende dal valore di ogni singolo personaggio. Il nostro pubblico per esempio ama molto, ne cito uno a caso, Vinicio Capossela, ti piace? Vinicio Capossela ti posso dire che è una mia scoperta. Questo non lo sapevo. È una mia scoperta, è arrivato con una cassetta diversi anni fa a casa mia, mi è piaciuta e l'ho fatta sentire al mio produttore Lorenzo Fantini. E adesso Vinicio Capossela è il terzo che produce Fantini, cioè Paolo Conte, Vinicio Capossela e io. La triade. Ti ringrazio anche a nome dei nostri ascoltatori e grazie per tutte le emozioni che ci hai dato e ci darai. Io ringrazio voi se ascoltate le mie canzoni. Ciao a tutti. Ciao.